Del microphone check, calci in culo. Dici muzia allo sketch, fa le mesh, calci in culo. Master chef sopra flat, calci in culo, calci in culo. 9-4 full AD che mi mise rica, così Satana puntò su di me la mira. Il mio canto si levava contro quelle grida, ad ogni rima un'anima scesa in cima. La mia lirica lo spinge alla regina, mozza teste dello zar e della zarina. E di notte che conquista la concubina, ogni faccio a te vivo su una pila. Mi infiltro agli inferi, amo di Serpico, tengo al guinzaglio quel gran can di Cerbero. Fa tutti i demoni il bastone che vi stermino, le mogli ve le insemino, il male ve lo rendono. Calci in culo e non cazzi in culo, se ne sei geloso si ricchione sicuro. Della femmina ne chiedo il culo, di si debito cannanze si sicuro. Calci in culo e non cazzi in culo, se ne sei geloso si ricchione sicuro. Della femmina ne chiedo il culo, di si debito cannanze si sicuro. E questi sono cazzo di calci nel culo, le fighette lo sanno che quando rimo ce lo duro. Sfondo con lo stile hardcore più crudo, la gente lo vuole e io non li deludo. Sono come Cujo il cane assassino, mordo le chiappe dei fighetti con il mocassino. Mi attacco le gambe delle tipe con il vestitino, mega fotta, incendio il tuo santino. Intrugo il confronto, sono Santarelli, usiamo i nostri microfoni come manganelli. Spaccando teste nelle feste, i nostri live son mazzate, no fashion. Vediamo roba grezza a parate, i deboli di cuore qui rischiano l'infarto. Le verginelle si bagnano, raggiungono l'orgasmo. Sotto un palco c'è Norge, tu dove sei? Dove sei? Calci in culo e non cazzi in culo, se ne sei geloso si ricchione sicuro. Della femmina ne chiedo il culo, di si invito cannanze si sicuro. Calci in culo e non cazzi in culo, se ne sei geloso si ricchione sicuro. Della femmina ne chiedo il culo, di si invito cannanze si sicuro. E me ne foto se ste liriche esplicite ti offendono me. Antaglio grezzo, no censure, stile ghetto che è. Così di trick come le clip di Garcia Rene. Con brava cinta, chef, policino, stile. Tranquillo club, lui vi tosti, cazzo di trend. Spingo il mio schede, l'underground senza glam. Zero emo, punta camo anche per l'Irsen. Non vuoi fermarci il passeggino con gli speedersman. Vincendo un clone e con l'altro il vero soul man. Troppiamo bombe, prima dopo il microphone c'è. È un vero show che con zero cache. Sono di mia figa e quindi un palo di uno stripler. Che se rap, vecchio stile sempre so fresh. Amo il vinile, odio il suono freddo e la dance. Dito medio, loop, boom, box e boom, bang. Dopo me, calci in culo senza the end. Calci in culo, non cazzi in culo, se ne sei geloso, si ricchione sicuro. Della femmina, ne chiedo il culo, di si tempito cannanze si sicuro. Calci in culo, non cazzi in culo, se ne sei geloso, si ricchione sicuro. Della femmina, ne chiedo il culo, di si tempito cannanze si sicuro. Calci in culo, non cazzi in culo. Calci in culo, non cazzi in culo. Calci in culo, non cazzi in culo. Calci in culo, calci in culo.